io l'incontrai. Spiaggio il fatto pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di lei. Perché? Il perché? Io le piacevo. Lei mi amava, mi amava, era contro di me. Immaginati che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Poi dove hai comprato il suo corpo? Non certo sul cuore. Aspettavo un sì da me, dal mezzo io mi alzai e il sozzo alla guardai, sembravo un angelo.